mezzanotte si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un vecchio fra calci, cilindro per cappello, due diamanti per gemello, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon di seta blu. S'avvicina lentamente con incedere elegante all'aspetto trasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene né dove va. Chi sarà quel vecchio fra? Bonni, bonni, bonni, bonni, buonanotte. Va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagia se ne va, la la la la la la la la la la la. È giunta ormai l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia poco a poco tutta quanta la città. La luna si è svegliata, sorpresa e impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo se ne va. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca galleggiando se ne va. Un cilindro, un fiore, un frac galleggiando dolcemente e lasciandosi cullare. Se ne scende lentamente su dai monti verso il mare se ne va. Chi mai sarà? E chi sarà quel vecchio fra? Ad un sogno mai sognato, ad un abito da sposa, prima ed ultimo, suo amor, la la la la, la la.